fa più male che bene, bene. Ma come si dice, ognuno ha le sue pene. Preso dall'insana voglia di farmi del male, non voglio morire, solo qualche giorno in ospedale. Una di quelle sere in cui faccio viaggi strani, non è il momento baby, richiamami domani. Adesso volo senza ali in un cielo d'aprile, questo non è volare, è cadere con stile. Scindo gli atomi, non chiedo pagami per questa roba che faccio, almeno amami. Amami! Sono un tipo semplice quanto i programmi della NASA. La vita è semplice, ma io la rendo complicata. Chi dietro un muro guarda il mondo, dentro una crepa, chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. Dici il gioco non vale la candela, sei condannato, qui il gioco lo vince chi è più affamato. Se soffrire il prezzo per realizzare il sogno, soffro col sorriso e non me ne vergogno. E non c'è niente di più nobile secondo me, vai avanti, non ti arrendere. Se soffrire il prezzo per realizzare il sogno, soffro col sorriso e non me ne vergogno. E non c'è niente di più nobile secondo me, vai avanti, non ti arrendere. In tutto quello che faccio ci sputo il sangue, so che se oggi fatico domani sarò più grande. Alla fine si tratta solo di crescere, sono sempre io a scegliere chi voglio essere. So che non dovrei piangere, lo faccio lo stesso, e che non dovrei soffrire, lo faccio anche adesso. Per quest'ansia non servono medicine, basta scrivere, vivere per sorridere, decidere di prendere in mano la propria vita, non smettere di correre se inizia la salita. La salita. Il mondo fa schifo, non si discute, ma non usarlo come scusa per evitare le cadute. Se non sei utile il sistema ti rimpiazza, perciò con microfono aspiro a riempire la piazza. Prendi uno specchio e guarda cosa c'è al suo interno, io vedo l'inferno.